Fantascena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giulio Bruno di BIM Distribuzione per presentare il film The Farewell, una bugia buona di Lulu Wang al cinema dal 24 dicembre 2019. Giulio, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Lo presentiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, è realmente uno dei migliori film dell'anno. E non lo dico perché sembra una frase fatta, ma è realmente così. Qui ci troviamo di fronte a quei rari casi in cui un film diventa per lo spettatore anche catartico. Non sono l'unico a dire che è uno dei migliori film dell'anno, lo ha detto gran parte della critica americana, ha detto Andy Wilde, lo dice My Movies anche qui in Italia. Siamo davvero di fronte a un piccolo gioiello che riuscirà di sicuro a emozionare e commuovere il pubblico che lo andrà a vedere. Questo perché innanzitutto abbiamo una grandissima regista che è considerata uno dei nastri nascenti di Hollywood, una delle più promettenti registe americane, che è riuscita, è stata capace di creare in questo film un arco narrativo di emozioni per lo spettatore che lo porta realmente alla fine della visione a un vero e proprio percorso catartico, realmente a sentirsi bene dopo il film. Noi quando l'abbiamo mostrato a Roma, alla Festa del Cinema di Roma, abbiamo notato una cosa veramente rara. Alla fine del film le persone che erano in sala, tutte commosse, si sono alzate dalla sedia e sono andate a ringraziare la regista e a raccontargli la storia della propria vita, a dire grazie davvero, questo film è stato bellissimo, anche a me è successa una cosa simile. Di questa regista è comunque il primo ad arrivare in Italia. Esattamente, è il primo film che arriva in Italia ed è un film importante perché ha avuto un bellissimo percorso negli Stati Uniti, è passato al Sundance, che è un festival importantissimo, ed è stato apprezzatissimo. E subito dopo ha avuto una piccolissima distribuzione, è uscito giusto in due città, Los Angeles e New York, è andato così bene che si è allargato in numerosissime sale del paese ed ha incassato tantissimo. Infatti è uno di quei rari casi in cui un piccolo film indipendente di una regista, poi possiamo dire esordiente, anche se non è il suo primo film, lei è straordinaria. Come dicevo, è riuscita a creare una storia che entra subito in empatia con il pubblico. C'è un'interpretazione incredibile della protagonista che è Awkwafina, poco conosciuta qui in Italia, però anche lei è un'attrice molto promettente che non a caso ha anche ricevuto una candidatura ai Golden Globe. Anche il film è stato candidato ai Golden Globe come miglior film in lingua straniera. E quindi finalmente anche il pubblico italiano ora si accorgerà di questa grande autrice e spero apprezzerà tantissimo questo film. Uno degli aspetti più interessanti del film è il rapporto che hanno i cinesi con la famiglia e con la morte. È come se una vita appartenesse alla comunità prima di tutto. Questo sì, mi sembra la chiave più interessante. Allora, questa è una cosa interessante. Hai fatto bene a farmi questa domanda perché ci tengo a dire una cosa. Innanzitutto il film non è un film cinese, è un film americano. E anche se si parla di cultura cinese, questo film è molto più vicino a noi di quanto può sembrare. Uno degli elementi che esce fuori della cultura cinese in realtà è che la famiglia è parte di un tutto. Ora, questo concetto è ben sviluppato nel film, non sto qui a spiegarlo, però è un'idea di comunità che in realtà viviamo anche noi occidentali. Tutto il film poi si basa su un meccanismo che è quello di non dire la verità a fin di bene. Non sto qui a raccontare tutta la trama, però alla base di tutto c'è questo, è cercare di far del bene evitando di dire la verità. E se questo effettivamente è una buona strategia. Ed è questo che poi porta il pubblico alla fine del film a commuoversi. In quante sale sarà? Nel sovraffollamento natalizio, The Farewell è una bugia buona, uscirà il 24 dicembre, 40 sale, quindi una piccola distribuzione, anche perché è un po' la controfferta sia all'offerta della commedia italiana classica del periodo natalizio che anche a quella più art house del sé, perché The Farewell è un film differente che si pone realmente a metà strada tra questi due generi che ho citato. È un film che registicamente è incredibile, ma al tempo stesso è un film leggero e contemporaneamente tenero, soprattutto che ti fa stare bene, quindi anche perfetto per questa atmosfera natalizia. Soprattutto non è un film che parla di morte. Il concetto di morte in realtà è un pretesto per poi creare un film che è in realtà un vero e proprio inno alla vita, ed è anche per questo che ci tengo a ribadire che è molto più vicino a noi di quello che può sembrare. The Farewell è una bugia buona di Lulu Wang al cinema da martedì 24 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Giulio Bruno di Beam Distribuzione. Giulio, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Con Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica per parlare del film Nancy al cinema da giovedì 12 dicembre 2019. Massimo, ben trovato. Ben trovato Federico, ciao a tutti. Lo raccontiamo in breve? Nancy è un film che è comunque, nonostante ci siano degli attori hollywoodiani che hanno fatto anche film di cassetta, si sono cimentati in questo film indipendente che ha riscosso successo ovunque, partendo dal Sundance dello scorso anno, vincendo come migliore sceneggiatura e poi ha accumulato premi nel corso di altri festival. Viene considerato in America il miglior debutto dell'anno scorso, quindi del 2018. Chi è Nancy? Nancy è una ragazza sola, diciamo dalla vita difficile, che a un certo punto si pensa, crede o vuole far credere che sia una bambina scomparsa molti anni fa in un'altra città americana, e contatta i genitori che non hanno mai smesso di cercarla e si instaura un rapporto tra di loro in attesa di conferma con le prove del DNA se effettivamente la vera figlia o no. In sostanza questo è l'inizio del film. Si affrontano dei temi molto importanti come l'uso dei social network, perché Nancy comunque è una ragazza sola, dalla vita difficile, che si attacca ai social network inventandosi delle nuove figure, dei viaggi che ha fatto, che non ha fatto, figli che ha, che non ha, insomma, quindi si crea tutta una sua atmosfera, tutta una sua identità di un personaggio, fino a che si scontra con questa famiglia che ha la disperata ricerca della propria figlia scomparsa, e da lì poi si dipana un po' tutto quanto. L'attrice protagonista Andrea Riseborough, conosciuta e più per film come Birdman, Animali notturni, Morto strano e se ne fa un altro, qui dimostra la sua dote camaleontica e fa un'interpretazione di grande intensità. Cos'altro sappiamo della regista? È la sua opera prima, Cristina Cho. C'è una cosa particolare di questo film, che diciamo è la nuova frontiera che da un po' di tempo sentiamo parlare del cinema americano, di dare più spazio a, tra virgolette, le quote rosa. Nel senso che l'80% delle persone che lavorano, dalla produzione fino ai reparti tecnici e artistici, l'80% sono donne. Il messaggio che dà questo film è che appunto tolgono gli stereotipi della figura femminile nei film hollywoodiani, quindi Riseborough si presenta, Andrea si presenta struccata, senza quei cliché bot che troviamo nei film americani di cassetta, e lascia spazio al suo modo di recitare, che è stato universalmente riconosciuto un gran dono, insomma, dopo questo film. Cosa hai apprezzato di questo lavoro in particolare? Come dico sempre, come ho detto anche nei precedenti nostri appuntamenti, ormai fortunatamente abbastanza costanti, sicuramente la storia, questa abitudine che abbiamo adesso in questa società di usare i social cercando di costruirci un'immagine che forse non siamo nella realtà, ma questa nuova identità che ci costruiamo su internet è comunque parte di noi stessi o è proprio un atteggiamento forse malato di crearsi qualcosa che non è esattamente quello che noi siamo? Questo è questo dubbio che ti lascia praticamente atteso per tutto il film. La cosa poi che io ovviamente apprezzo, come dico appunto sempre negli altri film, è la fotografia. La direzione fotografica è affidata a Zoe White, un'altra donna, che si sta facendo apprezzare tantissimo sempre nel mercato americano e anche straniero, in cui usa, oltre ai colori, oltre a certe inquadrature che a volte sono il primo piano, a volte no, a seconda della trama, usa anche il formato diverso, a seconda 4 terzi, 16 nonni, a seconda della struttura narrativa. Quando c'è la fotografia che segue comunque la struttura narrativa, a me è un elemento che da fotografo mi fa impazzire. All'estero è uscito dove? In Gran Bretagna, sta arrivando adesso in Europa. Noi siamo il secondo territorio in Europa che esce, abbiamo pensato di andare un po' controcorrente, e vista la carenza di film indipendenti durante il periodo natalizio, perché si dà molto spazio ai film più commerciali, io credo che comunque le persone che amano i film indipendenti, i film d'esse, vogliono comunque andare al cinema lo stesso a Natale e non si richiudono soltanto a casa a mangiare il panettone, quindi spero che questo, non dico che sia il film di Natale, però insomma ha tutte le carte in regola per essere apprezzato ed essere visto, insomma, incrociamo le dita. In quante sale? Classica uscita indipendente, incominciamo nelle sale nelle grandi città, usciamo circa in una ventina di sale e poi ci allargheremo sperando in un buon risultato del primo weekend. Abbiamo già fatto una sorta di anteprima a Firenze e allo Spazio 1, che è andata bene, nonostante gli articoli dei giornali stanno uscendo adesso, l'abbiamo anticipato. Quindi insomma questo ci fa ben sperare. A Roma Apollo 11 e Nuovo Cinema Aquila e poi via via. Nancy, al cinema da giovedì 12 dicembre 2019, un saluto e un ringraziamento a Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica che lo distribuisce. Massimo, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi il lupo, grazie Federico e un saluto a tutti. Con Andrea Caccia, regista del film Tutto l'oro che c'è, dal 15 dicembre 2019 a Roma, allo Spazio Apollo 11 e dal 16 dicembre al Cinema Belstrade a Milano. Andrea, ben trovato. Ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Ci parli di questo tuo nuovo progetto? Sì, come molti di questi film è un progetto che ha una storia lunga. L'origine del film in realtà sta in questo mio rapporto con il fiume Ticino, fiume sul quale in qualche modo sono cresciuto quando vivevo con i miei genitori sul versante piemontese, fino a circa 17-18 anni, è stata una delle mie mete favorite con mio padre, con i miei amici, eccetera. Dopo la parentesi milanese di 15 anni sono tornato a vivere di nuovo sul fiume, ma questa volta versante lombardo, esattamente dall'altra parte del fiume. E proprio in una di queste passeggiate con mio figlio è nata un po' l'idea di provare a raccontare un film che, partendo proprio dal fiume, mettesse in campo quella che a mio avviso è una necessità, cioè la necessità che il nostro sguardo cambi continuamente nel corso del tempo e che riesca a trovare sempre una nuova prospettiva. Quindi, lasciandomi un pochettino ispirare da questa morfologia del fiume, che è una morfologia che cambia in continuazione, no? Spesso quando si pensa ai fiumi li si pensa come sono disegnati sulle mappe, cioè come qualche cosa di immobile, no? Che rimane lì per sempre nella sua stessa posizione. Il fiume non è così, il fiume si muove continuamente e una tra l'altro delle cose particolari di questa riflessione è proprio che il fiume ai miei occhi nel corso della mia vita ha preso a scorrere in una direzione diversa rispetto a quella di prima, cioè quando lo guardavo sul versante piemontese, il fiume scorreva da sinistra verso destra e quando poi sono tornato a vivere sul versante lombardo, da destra verso sinistra. Quindi da questo rapporto così intimo col fiume ho pensato che il punto di partenza potesse essere proprio questo rapporto con mio figlio. Nel film ci sono 5 personaggi, uno di questi è un ragazzino, questo ragazzino è mio figlio. Non volevo però fare un film che fosse esclusivamente il rapporto, diciamo, tra un padre e un figlio, e da qui l'idea di cercare, scrivere, immaginare degli altri personaggi. Il primo personaggio che ho immaginato era un cercatore d'oro, e ovviamente quando si fa questo tipo di film si immaginano delle cose, ma poi la realtà è ne fa scoprire delle altre, no? Quindi, mi senti? Sì, sì. Quindi nel primo lavoro di ricerca sul film ho incontrato il cercatore d'oro, questo uomo straordinario, Rinaldo Molarchi, 75enne, che ha vissuto tutta la vita sul fiume, in realtà adesso vive a Gevano, che è, come dire, una cittadina vicino al fiume, ma che ha avuto un rapporto molto più intimo del mio col fiume, essendo prima con il nonno, poi con il padre, cresciuto proprio con ciò che il fiume e quello che sta intorno al fiume forniva, quindi non solo l'oro, ma anche il pesce, la selvaggina, la legna, i sassi e quanto altro. Quindi da questo duplice incontro, uno naturale, quello con mio figlio, poi quello invece cercato col cercatore d'oro, è nata l'idea di scrivere un film che, proprio per tornare a quell'idea originale, cioè del mettere in campo, no, il cambiamento dello sguardo, dove ci fossero cinque personaggi che si muovono intorno al fiume, ma appunto il fiume non è solo il fiume, ma le rive, i boschi, le campagne, i luoghi antropizzati che stanno non molto distanti dal fiume. E questi cinque personaggi sono, oltre ai due già detti, un cacciatore all'incirca di 30 anni, un naturista all'incirca di 45 anni e un carabiniere di 55 anni, in realtà prossimo ad una pensione che poi in realtà ha deciso nella sua vita reale di non avere, nel senso che a un certo punto questa figura del carabiniere, come anche le altre, nel film hanno portato, come dire, la loro vita, no? Le loro esperienze. E quello che poi il film cerca di fare è di quindi seguire le impronte, no, di questi percorsi, seguire questi cinque personaggi che si muovono tutti intorno al fiume, che si muovono tutti, hanno un rapporto che è reale con questo spazio. Io non ho portato nessuno di loro in luoghi, no, che loro non conoscono effettivamente. Mi segue in un film che è completamente privo di dialoghi, li osserva nel loro rapporto quotidiano con le cose, con la natura, con gli animali, col vento. Ovviamente quello che però poi accade nel film è che nel lavoro di costruzione, poi, no, di una narrazione, questi uomini che non si incontrano mai nel film, che non si incontrano mai nella realtà, perdonami, nel film si immagina che si possano incontrare. Qui entra in gioco il lavoro più di scrittura, che è quello che io solitamente svolgo a partire dal materiale già girato, ed è un lavoro che quindi, no, costruisce, o meglio decostruisce, no, i percorsi originari per fare un unico percorso generale, dove poi lì ovviamente è solo il film, no, che solo una volta che si è davanti al film che si comprende che cos'è questo percorso. Qual è lo stato di salute del fiume? Non è un buono stato, per tante ragioni, nel senso che in realtà il fiume Ticino negli anni 70 è stato proprio a rischio. Per questa ragione è nato il Parco Naturale del Ticino, che lo ha in qualche modo protetto e lo ha portato oggi ad avere, per esempio, delle acque molto più balneabili rispetto a quanto non fosse 20, 30, 40 anni fa. Dopodiché il fiume, come molti spazi naturali, è in uno stato un po' di abbandono, no? Nel senso che, pur essendo un fiume che percorre nella parte nord, nella parte centrale, i confini tra il Piemonte e la Lombardia, è un fiume in mezzo a dei paesi, no? È un fiume antropizzato, cioè non c'è una dimensione selvaggia, che poi è spesso quella che invece viene un po' raccontata, no? Quando si affrontano queste tematiche. Quello che io volevo provare a raccontare era che il fiume non è solo quel luogo di possibile riparo dal caos urbano, no? Lo spazio bucolico dove poter trovare se stessi, ma il fiume è fatto di tante cose, no? È una stratificazione di tante cose, e che nessuna delle questioni che possono essere centrali nel dibattito sul nostro rapporto con la natura può essere affrontata superficialmente, per cui ci sono